Sounds, pillole di musica domenicali. Ciao a tutti, bentornati a New Sounds, l'appuntamento della domenica dedicato alle nuove proposte musicali. Io sono Carlotta e oggi, ospiti ai microfoni di Radio Città Fujiko, abbiamo una band tutta bolognese, i Foschia. Con una carriera musicale iniziata ancora sui banchi di scuola, i Foschia debuttano ufficialmente sul mercato discografico l'11 ottobre 2019 con l'album Dalla città al cielo, uscito per la label bolognese Area Sonica Records. Un album innovativo ed originale, pur con solidi ancoraggi ad un passato musicale di cui i sei ragazzi bolognesi dimostrano una cultura ampia ed approfondita. 11 tracce in cui echi di prog e psichedelia si fondono al migliore cantautorato indie, in una originale miscela in cui il rock scandisce il tempo di un viaggio musicale, che fa a tratti sognare e a tratti scatenare e muovere la testa. Giovanissimi, tutti classe 1999 e 2000, i Foschia l'11 ottobre 2019 hanno festeggiato l'uscita del debut album sul mercato digitale internazionale e l'uscita su YouTube del videoclip L'attimo infinito, tra numero 9 di Dalla città al cielo, che è anche il primo singolo in radio. Allora, sono ospiti qui ai microfoni di Radio Città Fujiko, i Foschia. Benvenuti ragazzi. Ciao. Ciao. Buongiorno. Allora ragazzi, innanzitutto vi faccio i complimenti per il vostro album che è uscito l'11 ottobre per Area Sonica Records. È un album veramente di grande maturità, nonostante sia il vostro album di debutto, e lo dico anche perché siete giovanissimi, vero? Quanti anni avete? Io 20. Sì, anch'io. Io 19. Ecco, vedi, giovanissimi. E quindi vi chiedo innanzitutto, raccontateci un po' questo album, magari partendo proprio anche dal titolo, Dalla città al cielo. Della città al cielo può essere vista sotto molti punti di vista. Della città al cielo, diciamo, racconta di un'ascesa che parte dal piano più basso e arriva a un piano più alto, e questo può raccontare sia di un'evoluzione fisica del personaggio, dove vede cose e arriva in punti più alti, ma è anche un percorso psicologico, se uno vuole vederci anche questa chiave. Ok, e ci sono brani che si alternano, brani strumentali a brani cantati, ci sono anche brani molto lunghi, altri invece molto brevi. Dimmi pure. Posso aggiungere una cosa? Vai, quello che, a meno che non me lo sia perso mentre lo diceva, cioè ribadire il fatto che è un concept album. Il filo conduttore, diciamo, la crescita di questo personaggio all'interno dei pezzi che compongono il disco. Ok, sì, infatti si apre con questo singolo che è Il viaggio, che è un po' una sorta di invito, no? Come dire, venite anche voi in questo viaggio nostro. E ci sono poi tanti brani ovviamente organizzati come un concept album, per esempio Entrance, che è questo album lunghissimo però molto bello, che subisce tantissime variazioni lungo il brano, giusto? Cioè parte magari un po' a questa tonalità psichedelica, un po' anche mistica, che a me ricorda un po' la PFM, non so voi, ma... Sì, non sei la prima che... Ah, ecco. Ci trova questo accorgimento. Esatto, tra PFM e Radiohead, oserei dire. Questo Entrance che invita un po' ad entrare nella dimensione dei Foschia. Io vi chiedo, come mai Foschia? Da dove arriva questo nome? Allora... Da Giacomo. Da Giacomo, ecco. Il cantante che non è qui presente, purtroppo. Giacomo, il nostro cantante, ha frequentato il liceo classico e c'è stato un periodo in cui era molto... concentrato sulla derivazione etimologica delle parole. Ok. E l'aveva affascinato la composizione della parola, che rappresenta un contrasto in un certo senso fra luce e il buio. Adesso non vorrei essere inesatto. Io, almeno per quello che mi ha detto Giacomo, è come, diciamo, si è anche un po' perfezionato la paraetimologia, cioè una è una parola strana. Beh, l'amore per le parole è sempre molto interessante. Allora, così giovani eppure con una cultura musicale molto ampia, che si deduce appunto dalla maturità del vostro lavoro, ci sono tanti rimandi. Dove avete imparato a suonare? Come è nata il vostro consorzio? Allora, noi abbiamo iniziato a suonare un po' per passatempo, cioè eravamo amici, 2, 3, 4, fino ad arrivare... Sui banchi del liceo? Esatto, esatto. Quindi siamo partiti da 2, siamo passati molto velocemente a 3, quindi in realtà siamo partiti poi da 3, passando a 4, arrivando a 5, a 6, e trovandoci a suonare come amici, cioè ci trovavamo perché come gli amici si trovano a parlare, noi invece eravamo strani, ci trovavamo a suonare, insomma. Questo in 4-5 anni ha portato a far uscire questo disco. Quali sono le vostre influenze musicali? Diciamo che variano molto da persona a persona. C'è chi ascolta gruppi come Iron Maiden, Metallica, chi ascolta jazz, chi è iscritto al conservatorio jazz, appunto. Sì, e poi diciamo anche che in questo cioè durante questi anni in cui noi abbiamo lavorato insieme, anche i gusti di ciascuno di noi sono cambiati. E partendo quindi da anche soltanto il nostro cantante, che inizialmente era molto vicino al cantautorato, è un appassionato quindi di cantautorato italiano, e poi lui si è evoluto avvicinandosi al jazz, e altri, io adesso sono partito anch'io ascoltando cantautorato italiano, e passando poi per i gruppi inglesi e americani. Cantautorato italiano tipo cosa? I miei preferiti in assoluto sono sempre stati De André e Guccini. Sì, De André si sente secondo me, specie nel vostro singolo si sente un po' dagli accordi iniziali l'influenza di De André. E questa grossa diversità di ascolto di generi da parte nostra spiega anche la diversità dei brani all'interno del disco, cioè non ascolterete un disco in cui sarà presente una tastiera con lo stesso suono tutto il tempo, non ascolterete un disco che vi coinvolgerà allo stesso modo per tutta la durata dei 50 minuti. Si partirà da un brano come Il Viaggio, formato insomma da una chitarra e una voce, per arrivare a In Trance, lo sviluppo più intenso di Entrance con chitarre distorte, tastiere, organi, per arrivare a alcuni pezzi un po' più radiofonici anche. Esatto, come L'Attimo Infinito, che poi verrà riprodotto, pezzi più simili a una ballata come Different Ways, e tutto poi si conclude con Il Viaggio, che ritorna con Dalla Città al Cielo, appunto il nome, che come Il Viaggio ritorna una chitarra e una voce. Bellissimo, bellissimo anche questa sintesi che hai fatto appunto dell'album, era proprio quello che cercavo di carpire. Sì, ad esempio c'è un brano che si chiama Il Delirio, che è strumentale, giusto? Sì. Che inizia al pianoforte, quasi un po' classico, un po' jazz, quasi come una sorta di ninna nanna, che è paradossale per il titolo della canzone, no? E poi però si evolve, no? C'è questo riff di chitarra, la batteria che entra prepotente, quindi variazioni all'interno proprio anche delle canzoni stesse. È un brano che parte in un modo ma ti stupisce perché si evolve in tutt'altro. Esattamente. Il Delirio in particolare è un brano molto personale, nel senso che è stato scritto e composto dal cantante e poi rielaborato da noi, aggiungendo la parte iniziale in particolare e la parte più intensa, quella dove compaiono le due chitarre. Quindi il basso, non dimentichiamoci del basso. Il basso è infatti, allora, io sono il bassista, non ho detto niente, però nel primo pezzo e nell'ultimo anche il basso, cioè io voglio fare precisazioni. E invece parliamo proprio del vostro singolo estratto, quello che è già in radio, L'Attimo Infinito. Voi qui spiegate il rapporto col tempo, sempre in questa dimensione un po' mistica. Dite: questo è l'attimo infinito, già svanito, l'importante è che è durato. Anche qui molto strano, no? Allora, io ho approfondito molto col cantante perché mi interessava molto capire cosa ci fosse dietro a tutti questi versi che lui scriveva, che devo ammettere, non so se lui sia effettivamente consapevole o no del significato che hanno queste parole, perché hanno un significato che può essere letto su davvero tantissimi piani, cioè può essere una giornata, può essere non so, meccanica quantistica, cioè questo è l'attimo infinito. Uno può andare a sviscerare questa frase anche in tantissimi modi. Lui, secondo me, intende proprio, che è la mia interpretazione, secondo me intende proprio il pensiero come attimo, cioè quella luce, quel bagliore che ti viene dentro la tua testa, che ti immobilizza e ti fa immergere dentro te stesso, senza poi considerare il resto. Domanda difficile, che genere di musica fate? Rock. Risposta facile per domanda difficile. Esattamente. Rock. Rock. Io però leggo qua nella vostra e-card rock, prog. La difficoltà nel descrivere il nostro genere, cioè, è sempre presente quando si tratta di parlare con persone. Un amico che ti chiede cosa suoni, cosa suoni? Perché uno può dire rock, sì, è rock, però poi è rock, ma non è rock, quindi è sempre difficile descrivere. Allora lasciamo il mistero, lasciamo scoprire agli ascoltatori che cos'è che siete o cosa fate, anzi meglio, perché forse non bisognerebbe più etichettare le persone, giusto? Sì, il genere serve a chi generalizza. Bravissimo, ma vedete che siete di una maturità veramente... È grazie al bassista, cioè il basso si sente poco, alcuni lo confondono, una terza chitarra in realtà è... Il bassista è profondo quanto il suono del basso, quindi è vero, ringraziamo la profondità del bassista. Hanno solo 20 anni e guarda cosa ci fanno capire. Bene, avete live in programma? Sì, abbiamo due live in programma, uno il 21 novembre a Rimini e invece uno a dicembre sempre qua a Bologna al Cortile Caffè. E daremo tutte le varie info, diciamo, sulla nostra pagina Instagram, quindi seguiteci. Esatto. Ragazzi, ma posso farvi questa domanda? Voi, appunto, alcuni di voi si sono anche diplomati quest'anno, cioè uscite da pochissimo dal liceo, dalla scuola superiore. Quindi vi chiedo, ma pensate di fare questo di mestiere? Cosa ne pensano i vostri genitori? Studiate nel frattempo? Allora, io credo molto in questo progetto. Vorrei che diventasse il mio lavoro, ma vorrei che lo fosse già anche in questo momento. Purtroppo ancora non è così. Quando riuscirò a mantenermi, sarò soddisfatto del mio percorso. I miei genitori, diciamo, un po' ci credono, però mi dicono studia. Cosa stai studiando? Psicologia. Stai studiando? Cosa dovrei star studiando? Psicologia. Sì, anch'io sto studiando, ho finito la scuola l'anno scorso. E mi piace studiare, lo faccio molto volentieri, lavoro anche, però diciamo che fra le varie cose che faccio, quello che ho sperimentato in questo breve arco di vita, i Foschia sono quelli che mi danno la più grande soddisfazione, quindi mi piacerebbe tantissimo procedere in questo senso, ecco. Più o meno si potrebbe dire che suonare nei Foschia è l'unica cosa che io faccio, perciò ci sto puntando abbastanza. Benissimo. Dite i vostri nomi e che ruolo avete nella band. Picca al basso. Io sono Riccardo Gallerani e suono la chitarra. Nicola Focacci, tastiere e voce. E invece gli assenti, che li salutiamo da qua. Allora, gli assenti, ci sono degli assenti a noi più prossimi, altri invece che sono distanti in questo momento. Io partirei da quello più vicino a noi, ovvero il cantante Giacomo Grande. Un applauso Giacomo Grande. Poi il nostro chitarrista, invece, per andare a allontanarci un po', Francesco Reni, che altro salutiamo. Chitarrista che salutiamo. Che probabilmente tra un po' avrà un esame a Oxford. Lui sta studiando ad Oxford. Però. E il nostro batterista, Michele Carrabba. Quindi insomma, giovani e promettenti, mi raccomando, andate, correte sulle piattaforme streaming di musica oppure andateli ad ascoltare dal vivo. Dall'11 ottobre, appunto, in distribuzione il loro album Dalla città al cielo. Grazie ragazzi di essere stati con noi, ospiti di Radio Città Fujiko. Grazie a te per l'opportunità. Piacere. E tornate a trovarci, in bocca al lupo naturalmente per i vostri live futuri, progetti futuri. Grazie mille. Grazie. Ciao, ciao. Ciao. Grazie. Già svanito, l'importante è che è durato. Questo è il momento dell'amato, è il ricordo del passato. È il rumore del silenzio che ci isola dal tempo. È il momento in cui lo sguardo si fa assente all'istante. Spento, vago e astratto è quel che sembra in apparenza, ma l'arresto del sistema ci trasforma nell'essenza. Tanti flashback nella mente, assorto nel pensiero. E quest'attimo si fa luce nel tempo del presente. Di una fisarmonica distolgo lo sguardo dall'anima.